qualcuno riferiva che il capitano aveva acquistato un nuovo cavallo. «Può comprare tutti i cavalli che vuole. Ho incontrato Saint Loup domenica mattina nel viale delle acace. Ha tutto un altro chic nel montare», replicava un altro. «E con cognizione di causa, perché quei giovanotti appartenevano a un ceto il quale, se non ha le stesse intrature mondane, non differisce però dall'aristocrazia grazie al denaro e al tempo libero nell'esperienza di tutte quelle eleganze che si possono comprare. La loro tutt'al più aveva, per esempio nel modo di vestire, qualcosa di più puntiglioso, di più impeccabile rispetto all'eleganza libera e negligente che in Saint Loup piaceva tanto a mia nonna. Era una piccola emozione per quei figli di grandi banchieri o agenti di cambio vedere a un tavolo vicino, mentre mangiavano ostriche dopo il teatro, il sottufficiale Saint Loup. E quanti racconti faceva in caserma il lunedì, tornato dal permesso, uno che era nel suo stesso squadrone e al quale Robert aveva rivolto un saluto molto gentile, o un altro che, pur essendo in uno squadrone diverso, non dubitava che, malgrado ciò, Saint Loup l'avesse riconosciuto dal momento che aveva puntato due o tre volte il monocolo verso di lui. «Sì, mio fratello l'ha visto alla P», interveniva un altro che aveva passato la giornata in casa dell'amante. «Sembra addirittura che l'abito gli andasse largo e non cascasse bene». «E il gilet? Com'era?» «Non era bianco, ma mauve, con certi arabeschi da restare di stucco». Per gli anziani, gente del popolo che ignorava l'esistenza del jockey e si limitava a collocare Saint Loup nella categoria dei sottufficiali straricchi in cui faceva rientrare tutti coloro che, rovinati o meno, mantenevano un certo tenore di vita, avevano una rendita o una quantità di debiti abbastanza elevata ed erano generosi con i soldati, il modo di camminare, il monocolo, i pantaloni, i chepì di Saint Loup, anche se non ci vedevano niente di aristocratico, non rivestivano comunque minore interesse e significato. Riconoscevano in tali particolarità il carattere, il genere che avevano assegnato una volta per tutte al graduato più popolare del reggimento, modi che non trovavano riscontro in nessun altro, indifferenza per quel che potessero pensare i capi, tutte cose che apparivano loro come la naturale conseguenza della sua bontà verso i soldati. Il caffè del mattino in camerata o il riposo pomeridiano sulle brande sembravano migliori quando qualche anziano ammanniva al pigro e avido drappello saporiti dettagli su uno dei chepì di Saint Loup. «Alto come il mio bottino!» «Andiamo, vecchio mio, non pretenderai di darmela a bere! Non poteva essere alto come il tuo bottino!» interveniva un giovane laureato in lettere che tentava, ricorrendo a quei modi gergali, di non sembrare una recluta e, azzardandosi a contraddire, di farsi confermare una circostanza che lo deliziava. «Ah no? Non era alto come il mio bottino? Si vede che l'hai misurato! Ma se ti dico che il tenente colonnello lo fissava come se volesse sbatterlo in cella, è mica da credere che il nostro Saint Loup facesse una piega. Andava, veniva, abbassava la testa, la rialzava e ogni volta una botta col monocolo. Staremo a vedere cosa dirà il capoccia. Capacissimo di non dire niente, ma contento non sarà contento. Comunque ancora niente quel chepì. Pare che a casa sua, in città, ne abbia più di 30. «E tu come cavolo fai a saperlo, vecchio mio? Te l'ha detto il caporale di nottata?» insisteva pedantescamente il giovane laureato, facendo spoggio delle nuove forme grammaticali che aveva imparate solo di recente e di cui era fiero d'ornare la propria conversazione. «Come chi me l'ha detto? Ma il suo attendente, per Diana!» «Ecco uno che non se la passa male, ci scommetto!» «Sfido! Ha più grana di me, questo è poco ma sicuro! E gli gira tutta la sua roba smessa anche! E poi, siccome non gli bastava quello che gli davano in mensa, il nostro Saint Loup va giù e gli fa il cantiniere! Voglio che sia nutrito bene, pagherò quello che c'è da pagare!» E l'anziano riscattava la banalità delle parole con l'energia dell'accento, in un'imitazione mediocre che pure riscuoteva il più vivo successo. Uscendo dalla caserma, facevo un giro e poi, in attesa del pranzo, che consumavo ogni sera con Selyup nell'albergo dove lui e i suoi amici si erano sistemati, raggiungevo il mio, non appena calato il sole, per un paio di ore di riposo e lettura. Nella piazza, la sera posava sui tetti a cono del castello piccole nuvole rosa intonate al colore dei mattoni e completava il raccordo addolcendoli con un riflesso. Affluiva ai miei nervi una tale corrente di vita che non c'era movimento con cui potessi esaurirla. Ciascuno dei miei passi, toccando il selciato, rimbalzava. Mi sembrava d'avere ai talloni le ali di Mercurio. Una delle due fontane traboccava di un rosso bagliore, mentre nell'altra il chiaro di luna già dava all'acqua il colore dell'opale. Nello spazio che le separava giocavano alcuni marmocchi, lanciando gridi, descrivendo cerchi, come se obbedissero a qualche necessità dell'ora, al modo del rondogno dei pipistrelli. Adiacenti all'albergo, gli antichi palazzi cittadini e l'orangerie di Luigi XVI, dove adesso avevano sede la cassa di risparmio e il comando di corpo d'armata, erano internamente rischiarati dalle pallide ampolle dorate dell'illuminazione a gas, che già accesa, benché fosse ancora giorno, abbelliva le grandi, alte finestre settecentesche, dove non s'era ancora spento l'ultimo riflesso del tramonto, con un effetto simile a quello di una parure di tartaruga bionda su una testa ravvivata di rosso, e mi invogliava a tornare al mio fuoco e alla mia lampada, che essa sola nella facciata del mio albergo lottava contro il crepuscolo e per la quale rientravo con piacere, prima che il buio fosse totale, così come si rincasa per fare merenda. In camera seguitavo a vivere la stessa pienezza di sensazioni provata fuori, una pienezza che faceva a tal punto lievitare superfici quasi sempre a vedersi piatte e vuote, il giallo della fiamma, l'azzurro carico del cielo dell'alcova su cui il tramonto aveva tracciato come uno scolaretto degli scarabocchi col pastello rosa, gli estrosi disegni del tappeto posato sul tavolino rotondo dove una risma di carta e un calamaio mi aspettavano assieme a un romanzo di Bergotte, che, in seguito, queste cose hanno continuato ad apparirmi ricche di una particolarissima esistenza, suscettibile d'esserne estratta, o così mi sembra, se mai mi fosse dato ritrovarle. Pensavo con gioia alla caserma che mi ero appena lasciata alle spalle, con la sua banderuola che girava a tutti i venti, come un sommozzatore che respiri attraverso un tubo affiorante dalla superficie dell'acqua. Mi sentivo collegato alla vita salubre, all'aria aperta, dalla giuntura costituita per me da quella caserma, da quell'alto osservatorio che dominava la campagna solcata dal verde smalto dei canali e sotto le cui tettoie, dentro i cui fabbricati io potevo, per un prezioso privilegio che m'auguravo duraturo, rifugiarmi ogni volta che volessi, sempre sicuro di essere ben accolto. Alle 7 mi vestivo e uscivo di nuovo per andare a pranzo con Selyup nell'albergo che l'ospitava. Mi piaceva andarci a piedi. Era buio fondo e dal terzo giorno cominciò a soffiare, come scendeva la sera, un vento gelido che sembrava annunciare la neve. Apparentemente non avrei mai dovuto smettere, mentre camminavo, di pensare a Madame de Guermantes. Se avevo raggiunto Robert nella sua guarnigione, era soltanto per tentare di avvicinarmi a lei. Ma un ricordo, un dispiacere, sono qualcosa di mobile. Ci sono giorni in cui se ne vanno così lontano che si scorgono appena, li crediamo partiti per sempre, e ad altre cose allora che prestiamo attenzione, e le vie di quella città non erano ancora per me come luoghi dove viviamo abitualmente, semplici tramiti per spostarci da un punto a un altro. Mi sembrava che, per gli abitanti di quel mondo sconosciuto, la vita dovesse essere meravigliosa, e spesso le finestre illuminate di qualche caseggiato mi facevano sostare a lungo, immobile nella notte, mettendomi sotto gli occhi scene veridiche e misteriose di esistenze per me impenetrabili. Qui il genio del fuoco mi mostrava, in un quadro imporporato, la bottega di un caldarrostaio dove due sottufficiali, i cinturoni appesi a una sedia, giocavano a carte senza sospettare che un mago, facendoli spuntare dalla notte come in un'apparizione teatrale, gli evocava quali effettivamente erano in quel medesimo istante agli occhi di un immobile, invisibile passante. In un negozietto di rigattiere, una candela mezzo consumata, proiettando bagliori rossastri su un'incisione, la trasformava in una sanguigna, mentre, lottando contro l'ombra, la luce della grossa lampada conferiva bronzei riflessi a un pezzo di cuoio, niellava un pugnale con piccole scaglie scintillanti su quadri che non erano se non pessime copie, stendeva una doratura preziosa come la patina del passato o la vernice di un maestro e faceva, insomma, di quella topaia dove c'erano solo paccottiglie e croste, un inestimabile Rembrandt. A volte alzavo gli occhi fino a un grande, vecchio appartamento con gli scuri ancora aperti e dove uomini e donne anfibi, capaci di riadattarsi ogni sera a vivere in un elemento diverso dal giorno, nuotavano lentamente nel liquido vischioso che al cadere della notte sgorga incessantemente dal serbatoio delle lampade per riempire le stanze sino all'orlo delle loro pareti di pietra e vetro e dentro il quale propagavano, spostando i loro corpi, vortici untuosi e dorati. Riprendevo il cammino e spesso, nel vicolo tenebroso che lambisce la cattedrale, come un tempo sul sentiero di Meseglise, l'intensità del desiderio mi paralizzava. Una donna, sentivo, sarebbe comparsa a soddisfarlo. Se nel buio avvertivo di colpo il fruscio di una veste, la violenza stessa del piacere che ne provavo mi impediva di credere che m'avesse sfiorato per puro caso e tentavo di stringere fra le mie braccia una passante spaventata. Quella stradina gotica aveva per me qualcosa di così reale che se fossi riuscito lì a sedurre e possedere una donna non avrei potuto fare a meno di credere che ad unirci fosse l'antica voluttà, quando anche si fosse trattato d'una semplice adescatrice appostata ogni sera in quello stesso luogo, ma la quale l'inverno, il disorientamento, l'oscurità e il medioevo avrebbero prestato il loro mistero. Pensavo al futuro. Sforzarmi di dimenticare Madame de Guermantes mi sembrava atroce, ma ragionevole, e per la prima volta possibile, forse addirittura facile. Nella calma assoluta di quel quartiere, sentivo davanti a me parole e risa, certo di passanti un po' avvinazzati che tornavano a casa. Mi fermavo per vederli, guardavo nella direzione da cui era giunto il rumore, ma dovevo aspettare per un bel pezzo, perché il silenzio tutto intorno era così profondo da lasciar filtrare, con forza e nettezza incredibili, rumori ancora lontani. Alla fine i passanti comparivano non di fronte, come avevo supposto, ma dietro e a notevole distanza. Sia che l'incrociarsi delle vie e l'interporsi delle case avessero causato per rifrazione questo abbaglio acustico, sia che risulti sempre estremamente difficile situare un suono di cui ignoriamo la provenienza, mi ero ingannato, oltre che sulla distanza, anche sulla direzione. Il vento rinforzava. Era tutto irto e granuloso d'un preannuncio di neve. Tornavo nella via principale e saltavo su un piccolo tramvai dalla cui piattaforma un ufficiale, dando l'impressione di non vederli, rispondeva al saluto di goffi soldati che passavano sul marciapiede con le facce accese dal freddo. Vedendole, era impossibile non pensare, in una città che il brusco salto dell'autunno a quel principio d'inverno sembrava aver trascinata in un nord più profondo, alle facce rubiconde che Bruegel dà ai suoi contadini allegri, bisboccioni e gelati.